E allora continuiamo a parlare di inceneritori perché sono prepotentemente rispuntati nel dibattito pubblico italiano. Lo facciamo insieme alla dottoressa Patrizia Gentilini, medico oncologo ed ematologo ed esponente dell'ISDE, l'International Society of Doctors of Our Environment, che saluto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, nel dibattito di questi giorni sugli inceneritori si dice: beh, quelli di nuova generazione sono più sicuri, i rischi per la salute sono azzerati. Le chiedo se ci può aiutare a capire se è vero. Dunque, sì, molto volentieri rispondo, anche se è davvero deprimente, dopo decenni che ci occupiamo del problema della gestione dei rifiuti e abbiamo, diciamo, evidenziato tutti i rischi dell'incenerimento, siete ancora qui a parlare di queste cose, ecco, perché se si fossero seguite le indicazioni che non certo noi, ma la stessa Unione Europea dà, a quest'ora non ci troveremo in questo problema. Innanzitutto sfatiamo appunto l'idea degli inceneritori di nuova generazione. Vi porto solo l'esempio che interessa, siete di Bologna, dell'inceneritore del Frullo, quindi fatto, diciamo, con tutti i crismi, gestito in maniera super corretta dal famoso studio Monitor fatto dalla regione Emilia-Romagna. È emerso che gli unici due studi pubblicati sui rischi per la salute sono proprio rispetto agli otto inceneritori, avendo come parametro ripeto, per le emissioni l'inceneritore del Frullo, c'è un aumento statisticamente significativo dei nati prematuri e dei bambini sottopeso e dell'abortività spontanea. Ecco, fra l'altro, appunto, Bologna, siamo in pianura padana, una delle aree più inquinate del pianeta, ormai sappiamo bene tutte le problematiche che la cattiva qualità dell'aria comporta, non solo per il rischio di cancro, i problemi cardiocircolatori e respiratori, ma sullo stesso sviluppo del feto, addirittura danni cognitivi e problemi per quanto riguarda la conduzione della gravidanza. Quindi sul fatto che diciamo gli inceneritori anche di nuova generazione siano comunque un problema non ci può essere alcun dubbio, perché anche se rispettano i limiti, ecco, sappiate che il volume di fumi emessi è enorme e alla fine diciamo la quantità di sostanze tossiche fra diossine, PCB, metalli pesanti che sono emessi a norma di legge, di fatto danneggiano e mettono gravemente a rischio la salute delle popolazioni esposte. Voglio anche ricordare che diciamo anche di recente l'Unione Europea ha ribadito che l'incenerimento dei rifiuti e quindi il recupero di energia viene dopo il recupero di materia, quindi prima bisogna ridurre, riciclare eccetera eccetera, e quindi questo è davvero l'ultimo passo. Non dimentichiamo poi che gli inceneritori non è che fanno scomparire i rifiuti, perché chiaramente diciamo c'è almeno un 30% di ceneri che residuano e siamo scandalizzati in tutti i modi, l'abbiamo detto, perché poi queste ceneri altamente pericolose e tossiche si è pensato bene, fra virgolette ovviamente, di metterle nel cemento, di mandarle ai cementifici, e quindi tutte queste sostanze intrise di agenti tossici ce le ritroviamo poi quando negli edifici che costruiamo. Questa non è l'economia circolare, questa è veramente, come dire, una presa in giro di quelli che sono i concetti fondamentali in un momento in cui tutti gli scienziati lanciano l'allarme per i cambiamenti climatici, il degrado del nostro ambiente, della salute, del pianeta. Ecco, guardi, ripeto, sono interpreto veramente, è deprimente dover tornare a parlare ancora una volta di queste cose. Sembra che tutto il nostro impegno in tutti questi anni sia stato vano, ma per fortuna la gente ha le orecchie e l'intelligenza per capire, i politici purtroppo sono ancora indietro. Eh sì, infatti le volevo fare un'ultimissima domanda, insomma, ha spiegato bene, ci ha fatto capire bene, insomma, quali sono i problemi, e citava anche l'Unione Europea. Il dibattito anche scientifico, ma non solo, anche civile, diciamo così, negli altri paesi, quindi è, come dire, molto più avanti di quello in Italia? Ma assolutamente sì, guardi, l'esportazione dei rifiuti, no, di cui tanto si parla, sì, li dobbiamo portare negli altri paesi per bruciare, perché negli altri paesi hanno costruito inceneritori, stanno attuando una politica dei rifiuti molto migliore, quindi questi impianti diciamo mancano di materia prima e quindi la vengono a comprare da noi. Una volta che un inceneritore è costruito, pulito, ci vogliono almeno 20 anni per ammortizzare i costi, ed ormai è chiaro che quando si fa l'inceneritore questo contrasta con quella che è una gestione corretta dei rifiuti, perché questi impianti vanno alimentati e quindi gestire correttamente i rifiuti e nello stesso tempo fare inceneritori e mettere come mettere insieme il diavolo con l'acqua santa. Io la ringrazio. Grazie a voi, grazie a voi. Arrivederci.